Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti i nostri cari ascoltatori e ascoltatrici, un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Siamo arrivati ormai all'ultima trasmissione del mese. Mannaggia. Anche gennaio se n'è andato. Sì, molto velocemente devo dire. Sì, ma veramente velocemente. Esatto. Anche perché sai, il freddo non l'abbiamo sentito questo mese. No, in effetti anche questo ha aiutato. Però in dialetto mantovano, ma io lo dico in italiano, dicono che il freddo e il caldo non lo mangia nessuno. Assolutamente. Quindi, vero. Vabbè. E approfittiamo per dare un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e del relativo download della trasmissione. Senza dimenticare un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. Bene, allora, questa sera che abbiamo, Antonio? Ah, un ospite molto particolarmente gradita, diciamo a noi, ma anche che ai nostri ascoltatori. Sì, che è la signora Franca Turchetto. Esatto. Di cosa ci parlerà? È una sorpresa, è una sorpresa. Benissimo. Cominciamo allora con la prima canzone. Volevo così fare un omaggio a Umberto da Preda, che è morto qualche tempo fa, ma sarà quanto, un mese penso, non so, ma comunque è da molto molto poco, e quindi noi lo salutiamo con una canzone che lui cantava spesso, insomma una del suo repertorio, ed è Ciao Venezia. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao, ciao Venezia, ciao Venezia, ciao. Ciao, ciao. Così bella non ti ho vista mai, addormentata sul tuo mar. Sei come una favola che non so narrar. Tante cose dire ti vorrei, le vecchie case salutar. Mi sento ridicolo e non so parlare. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao. Non potrò dimenticarti più, vorrei portarti via con me. Mi sembra impossibile non tornar da te. Io ti lascio un po' di gioventù, di vita un po' di cuore. Ho voglia di piangere nel lasciarti ancora. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao. È lontano il ponte dei sospiri, ma io continuo a sospirare. Aspetto il miracolo di poter tornare. Lentamente l'ora di partire mi sta portando via da te. Carezzo una gondola e non so perché. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao, ciao, ciao. Eccoci di nuovo in studio e fra qualche secondo avremo in linea la signora Franca Turchetto, che noi amiamo e so che anche voi l'amate. Franca? Sì, ciao. Ciao. Io amo voi, buongiorno a tutti. Salute Franca, no, buonasera. Credete essere mezzo tutto vi altri di amare, anche mi amo. Anche te. Anche al mare. Non ti cammina Gesi per caso, canzone della Preda, grazie che ti ho ricordato, amo il mare. Non lo so, bisogna che guardi, ecco, bisogna che vada in cerca. Va bene, una richiesta fuori Te la prometto per la prossima volta, va bene? Va bene? Allora Franca, intanto bentornata e buon anno. Grazie tanto, contraccambio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Ecco, voi altri. Stai bene? Sì, sì, grazie. Beh, si sente. Questo mi fa piacere. Sì, sì, dai. Stasera di che cosa ci parlerai? Stasera parlo di un discorsetto che può essere facile, difficile, triste, allegro, casomai ascolteremo il giudizio. Mi stasera ti ti ricordare... da preda sarà un mese che è morto. Ah, ecco, mese, non mi ricordavo. Se voglio ricordare un altro gran personaggio veneziano che è morto da diversi anni, e parlo di Mario Stefani. Saranno 10 anni che è morto. Di più, sarà 3. Sì. È morto nel 2001. Ah, beh, allora sì. Ecco, che è stato un gran poeta e che sfidà la sua solitudine. Ah. E ci sarà qualche ascoltatore o ascoltatrice che lo avrà conosciuto. Può darsi, sì, senz'altro. Sì, sì, perché si faceva parte dei gruppi di poesie dove che io era presidente, e io conoscerà senz'altro. Va bene. Sì, diamo un saluto anche agli ascoltatori. Allora, andiamo avanti. Prima vi parlo un fiato leggermente della biografia e dopo, se sarà tempo, qualche ricordo che ho... mi personale coeo, insomma. Va bene. Allora andiamo avanti. Mario Stefani, El Gera, al che parlo il presente. Va bene. El Gera, no? El Gera, Ose, va bene. El Gera, critico d'arte, giornalista e tante altre robe che adesso vi dico, ma soprattutto El Gera, poeta, nato a Venezia il 4 agosto del 1938. E sempre il giorno 4, però de marzo del 2001, si è data della sua morte. Ah, 4-4? Sì, solo che abbiamo 3 mesi, 4 mesi di distanza. Però è morto giovane? Sì, è morto giovane, sì, e d'altronde non vedrà niente da fare. Va bene, adesso sentiremo. Beh. Dunque, io sei laurea col massimo di voti, discutendo una tesi sull'epistolato di Piero Aretino. Ah, di Pietro Aretino, sì. E lavora all'Università di Urbino col professor Neuro Bongasi, che mi non conosco, insomma. È già era collaboratore del Gazzettino, perché scriveva racconti, storie, che ha scritto libri, insomma, già era anche giornalista, e ha ricevuto vari riconoscimenti e tantissimi premi per tutte le sue opere che ha pubblicato, perché ne avrà pubblicato, insomma, abbastanza, sarebbe un elenco massa lungo. Mm-hmm. E sta anche insegnante, ma mi metto un puntino, in diversi istituti superiori omosessuali, perché qui a Zera è sua vita. Ho capito. E sereno Zera della propria diversità socialmente sensibile, e Zera tanto travolgente perché coinvolgeva tutti, e anche coraggioso. Praticamente si comportava da un vero gentiluomo. Ah. Sì. Gese un giudizio di Zanzotto, il poeta che si andanca aiuto, sì, sull'operato di Mario. Ero io, dice Zanzotto, è il suo stile senza scosse, armonioso e apprezzato per la sua schiettezza, che lo avvicina ai linee di Sandro Penna, Costantininos Cavafis. Adesso un poeta. Ah, Cavafis. Sì, ma questo nome Costantininos, puoi mettere Costantino e basta. Costantino Cavafis. Non è greco proprio. Sì. Ecco, senza esibizione e scondarioe nell'ero. Praticamente era un poeta erotico anche questo, Costantino. Ah, sì, sì, difatti ho letto diverse poesie, ecco, di Costantino. Ecco, non mi lo conosco. E opere di Stefani sono state tradotte negli Stati Uniti e in Inghilterra. E tante delle sue poesie lega musicale Roberto Miccioni, che non conosco neanche questo musicista. Che adesso è di Venezia, no, però. Non so. Su De Lu, su Mario, si è stata discussa una prima tesi di laurea a Venezia e una seconda, già annunciata a Roma, a conferma della sua indiscussa qualità di scrittore e poeta, e non so come è andata a finire. Ah. È che ha ottenuto il premio Bergamo de poesia per il libro Elegie veneziane, è il premio Presidenza del Consiglio dei Ministri, premio Gabbice o Gabbice? Gabbice. Ecco, mi correggetemi perché qua, no, qua è grammatica nuova, mi non so più. C'è cioè, Gabbice Monte e Gabbice Mare. Mare, ecco, esatto, non conosco, sì. Neanche qui in mezzo. A Milano, a Roma. Poeti e critici, se è interessato alle sue opere, scrivendo articoli su giornali e su riviste. E tra sti quali sta Carlo Bode a Corte, Moravia e Montale. Pezzi da 90? Ma sì. Tanto 90, perciò sì. È già da uno da 100 un caeo. Sì. È già tanto stimato da Diego Valeri, però. Aldo Palazzeschi, Indro Mondanelli, Virgilio Guidi e Cesco Basigio. Però. Sì. Come me, e aveva un difetto Mario. Cioè? Una mania. Cioè? E già era attaccatissimo alla società. Ah, è una bella cosa questa. È un virus. Che se difficile cernir dove finisce Venezia e dove scomincia Stefani. Ah, addirittura. Era tutto uno. Addirittura. Sì. Era proprio appassionato. Sì. Ma oltre che anche a Venezia, io ero appassionato anche della vita quotidiana di veneziani. Perché io non vedevo un ponte, non vedevo una cae, non vedevo un campiello, che non trovava qualche duni da ciacquarba, che ammassa spalle, buon di vecchio mio, per esempio i gondolieri, quando che passava traghetto da andare a stare di alto, dove che c'era, cioè, io riparati per reverenza, non aveva a fargli pagare il biglietto, il traghetto è a moneta, cioè, e io sapevo andare, però io ero sicuri che o su un arrivo o su quest'altro, o che c'era il caffè, o che c'era l'ombra, o che c'era la graspetta, o che c'era qualcosa, insomma, che un'aranciata. Un riconoscimento, Ecco, che c'era, ti dà che più c'era un scambio merci. Sì, sì. Ecco. Allora dice, sto Stefano, insomma, un venezianasso fin in fondo, tanto che il sindaco del suo tempo, ma non mi ricordo chi che c'era, lo ha portato una sua poesia intitolata Venezia Amor al Parlamento Europeo in occasione sua disputa dell'Expo, che cioè, quanti anni fa si vuole fare l'Expo qua a Venezia? Tanti, anni. Sarà 20 anni? Mm-hmm. Sì, vabbè. Allora, El era come personalità un bonaccion e si trovava bene a far quattro ciacque con tutti, come che ho già detto, e sorrideva scondendo però un mondo di solitudine e di disperazione amorosa. E solo a sera, quando che magari era a casa sua solo, e si sapeva andare a qualche gotto di vino, confidandosi con pudor sui suoi amori omosessuali, quasi ridendo che sora qui onia e vivendo la sua personalità in modo sempre spiritoso e educato, senza fargli in passo a nessuno. Sì. Dunque, nei suoi momenti di intimità, quando le ricordava le sue poesie segrete, io le chiamava segrete perché dopo lui le sussurrava con pudor. Ho capito. E dice, ho un momento di tristezza, vedo tanta cattiveria e invidia, questa mancanza di amore mi uccide. Così ricorda con commozione qualche episodio di gente che invece lo amava e che io contraccambiava, quasi una roba che si incada a ride. Nelle botteghe gli fai sconti, col va a comprarsi. C'è proprio uno, una cionda. Sì. E gli diceva che i poeti sono poveri. Insomma, gentilmente anche gli dava da gnocco. Guarda, no, dai, che scherzo. Un forner vuol dai una poesia da stamparsi i sacchetti del pan. Pensite che onore. Ma pensa. Davvero, sa? Sì. E una vezza, quando lo comprava, sto pan e dimandava, e il medaga do cioppe quella poesia? E vado a vedere la vezza col cocognaio, che io, magari la sarana che è stata bonese, ben al veneziano. Ma queste signore di una certa età che sono più... Sì, do cioppe con la poesia di Mario. E Mario è una buona persona, è gioviale. Mario che tiene tanto a definirsi fragile e fa toccare di carta veina. Ed era un tocco di uomo sul robusto e si sentiva come un tocco di carta veina. Tu l'hai conosciuto, Franca? Sì. Proprio personalmente? Sì. E ho anche avuto... da dirle robe. Lo vuoi rimproverare? Ah, l'hai rimproverato? No, aspetta, mi fermo un attimo. Mi Mario lo conosco col fatto che mi facevo diversi concorsi di poesie. Sì. Sia al Bocco, che sia al Bocco, ne ho fatto uno anche a Treviso tempo fa, io tempo fa, sarà 25 anni fa. Oddio, un po' di tempo fa. Sì, appunto, ed era un gemellaggio con Pirano. Vabbè, insomma, non importa. E io facevo parte sì della giuria, perché ciò che dava i soldi, in più anche era presidente della giuria. Ah. Perciò quando che si andava a Torse, no, Torse Premio, che si andava a manifestazione, cioè soltanto di grandi intellettuali che c'erano anche io. Perciò mi personalmente ho avuto modo di vederlo. Dopo che c'è stato un momento che abbiamo fatto una battaglia tra Guelfi e Ghibellini. Ah. Sì, se mezzo il dietro, se mezzo il veneziano. Ah. Io gli intellettuali dell'italiano, cioè parteggiava per sua lingua, i dialettali per suo dietro. E un giorno, cosa c'è stato? Vedere anche io facevo parte della giuria, in sala comunale del municipio di Mestre, perché ora abitavo, stavo di casa di qua, insomma, dell'acqua. Siamo sentati tutti a tavolino e ognuno ha esposto il suo giudizio, no? E che si sta qui indietro, che ha detto la sua poesia, qui in italiano è sua, mi avessero detto poesie mie, ho tirato diverse frasi da delle mie poesie, perciò fa conto che ne ho fatto mezza di una. Sì. E questo è il momento che mi ha detto indietro, e ha detto così curta, più mi fa, sì. Così curta. Non sei fatto di così curto, adesso mi aiuto, volevo sapere da voi altri professori come che si può tradurre in italiano queste frasi che mi ho scritto in dialetto. E il primo battimase venivo da io. Ah, penso. E ha detto, cani su ne fesso. Cani su ne fesso. Bene, ci fermiamo un momentino e ci ascoltiamo una canzone. Allora, ci ascolteremo Emma Marrone. Con una canzone, questa volta vado sul moderno, sai Antonio? Non sempre. Benissimo. Cullami. Capita di credersi una quercia di una grande, ricca foresta e puoi scoprirsi una pianta di un giardino di campagna. Capita di perdersi anche quando si conosce a memoria il percorso e ritrovare la pace solamente tra le braccia tue. A portata di mano, invece no, quello di cui tu hai più bisogno è al di là del recinto. Capita di arrendersi al ricordo di un amore negato, ma ora so ritrovare la pace solamente tra le braccia tue. Sulla mia mi ritorna in mente la poesia di una Eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Franca e lasciamo proseguire questa carrellata di ricordi. Grazie. Dunque, l'umanità dolorosa di Stefano, zesta socchietta disperazione di un uomo solo e infelice, data la sua complessità e la sua personalità. Ella aveva appunto, come si è detto, un talento poetico e era sempre vissuto giorno per giorno una forte angoscia che se può riassumere con le sue parole, solitudine un'altra volta e infelicità, e se le ripete sempre nella sua vita queste parole. Solitudine e infelicità. Infelicità. Non era felice, anche se io non dava da vedere. Ma non era... Sì, ha avuto degli amori... Sì, beh, sì, di amori travolgenti addirittura. Ma non magari... No, forse dopo magari nella conclusione della presentazione che sarà il motivo. Quando che è successo tutto il fattasso, che dopo i giornali che ne parlano, non so per quanto tempo, dopo gli amore, perché anche stufano, e dice che sia sta più che usa andare in crisi, ha avuto un periodo di stress, di esaurimento fisico, che la sua personalità si è dimesata. Ah. È già diventata metà di quel che era. Addirittura? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Mio ho visto perché io, non so, periodicamente ero ospite sulle trasmissioni televisive quei locali, no? Ho capito. E era tanto, e difatti io contava tutte le sue robe, non ho mai tenuto sconto niente, ma lo diceva con una semplicità, una natura essa, che insomma, già era bello ascoltarlo. Sì, sì. E ho rivisto dopo diverso tempo ciò, ma proprio da zappar paura, poveretto. Sì. Ma forse stava male anche fisicamente? No, io pensavo, al momento io pensavo perché che si interessava, cioè, stava male perché aveva l'esaurimento, come si una dice, depressione, forse profonda. Forte, forte. Sì. E pareria che dopo, concludendo, spiegherò meglio, che Yuga avesse avuto la delusione di un tradimento. Non un tradimento chi capa l'Amadeo, ma proprio dell'amore suo. Se sta per interesse, se sta per fatti ereditari, se sta per fatti che se, cioè, robe che non si sa, perché io, togliendosi la vita, non ha spiega il suo motivo. Però sì. La conclusione della lettera che ha sa, il testamento che era Tiago Pio Yuga, aveva avuto una forte delusione amorosa, sì. Sì. Che addirittura l'ha portato sì, al suicidio. Sì, lo ha portato perché appunto insiste sempre sta umanità, sta solitudine, sta disperazione, sta infelicità che Yuga vive questi anni così. Quindi non è che lui soffrisse per questa diversità? No, no, non soffriva. Perlomeno insomma non lo dimostrava, o se soffriva, no, non credo, perché se viveva di quello. Ah beh sì, per Tiago. Allora dicono che, a parte questo fatto che soffriva questa solitudine e fisicità, e ora, commento anche mio, pare impossibile a chi che lo vedeva piuttosto estroverso, ti vedi, girare tra mezzo e gente sempre pronto a dar consigli. Ah. L'aggiuntava tutto, tutti, malgrado il successo che aveva, io restava sempre un uomo terribilmente solo, solo e solo, ti vedi? Ma cioè io si sentiva la solitudine perché non c'era mai. Ecco appunto, mancanza d'amore. Sì, è molto mal d'amore. Allora, praticamente è morte dei genitori, prima è morta sua mamma e dopo è morto anche suo papà. Lo aveva condizionato in maniera tanto forte che io non trovava più pace, più gusto neanche nella sua intensa attività artistica. E qua Yuga ha scritto, dopo Bionia Chiesa, perché è interessante, ha scritto diverse poesie su sua mamma. Ah. Questa qua che adesso vedo è quella più, diremo, più Yuga, che è scritta dappertutto, ecco, Yuga scrive. Però, essendo sta un poeta talmente famoso, erudito, questa poesia qua o non è capisso, o a me dà tanto di infantilismo che mi fa per fin peccare questa roba. Sentiamo dopo. Ora dice, e parla con sua mamma, e dice: mamma, ti te gade smentega di me? Mi te penso e discoro con te tutto il santo giorno. Che crucio se non ricevere a tua voce. In sto mondo pieno di bugie, mi me muovo, te dico tante robe. Te conto tante fiabe, e ti titasi. Mi te sento vicin da rente a me ne ricordo. Mamma mia, mia bea, anche se ormai invece sfinia degli anni. Mamma, finia il primo di ottobre, qui oggi roversi con i poveri coombi mai che mi rancuravo. Mamma, volevo portarti una coperta, c'era freddo in cimitero. Mamma, parlimi un poco, anche una parola sola. Quante robe è nato da allora, e mi te vardo, sarà da dentro prigioniera. Mamma, vorrei liberarti, darte e a mia vita da poco. Beh, guarda che sì, una bellissima poesia è qui. Sì. Intensa proprio. Secondo me non è infantile. Cioè, non dico che sia brutta, io sento che dice, te parlo con te tutto il santo giorno, sento che è un uomo, un gran... Mancanza d'amore. Sì, ecco. Proprio la mancanza d'amore, comunque è una poesia stupenda. Automaticamente, io non che ha scritto una poesia, ti aggiungo questa perché fa parte del sì. Io che ha scritto una lettera a suo papà, questa qua a me mi dà i brividi, per esempio. E adesso sentirei dopo la differenza, sì. mi ho sentito differenza da questa. Io gli scrivo una lettera, sempre dopo morto. Sì. Caro padre, vorrei chiederti perdono se sono diverso, ma so di non avere orgoglio ed ho tanta umiltà per dirti che scegliere una vita è troppo facile per lasciarla agli altri. Non ti ho mai dedicato una poesia, eppure sei parte e vivi di me stesso. Da quando mia madre, dolce nome che trema ancora sulle labbra, è scomparsa, con le sue dolcezze improvvise e coi suoi comandamenti, sei l'unico polo in cui ritorno quasi ad un porto. Tu conosci le bufere delle mie passioni e mi devastano, oh quanto, la bellezza adolescente sconvolge ogni mia fibra. Il cuore aspira e soffre a quei sorrisi, a quelle membra dolcissime ed amare. E io muoio, padre, ogni giorno, e ogni giorno risorgo nella loro meravigliosa carne. Amen. E così sia. Sì, questa è molto diversa. È sì. Tanto diversa. Vero, Antonio? Una missione proprio di... Sì. Di impotenza per certi versi, insomma, sì. Ecco. Perché, mi cosa... sento, sì, è una diversità, ora dico che questa qua comunque io preferisco l'altra, mamma. Sì, beh, per me è molto tenera. Sì, molto... ma ti dico proprio, se vede che qua adesso, per esempio, io ne ho scritto un'altra su mamma, mette giunge le labbra e muore un uomo, ora racchiusa sei in una bara d'ombra. Non sai della vita, né delle stagioni, crocefisso dei ricordi, rimango in attesa della mia quiete, questa è già diversa. Speranza non varca la mia soglia, né voce amica, muto sono a me stesso. Sì, questa è già diversa, sì. È molto diversa come poesia. Perciò una... ti vedi la sofferenza che la io... È un uomo che soffre, sì, ma in una maniera sì, quasi viscerale. È anche maniacale, è l'amore. No, viscerale. Sì. Questa mancanza di affetto. Questa... Sì, io che mancava sua mamma per tante robe, anche se appunto come che dice nella poesia della lettera del papà, che dice che era anche dura nei suoi comandamenti, perché essere una donna forte. E anche questa forse una radice di tutti questi problemi, ecco, inespressa ma latente, insomma. Cioè, ecco, mi ricordo su un'intervista che avevo sempre perché andava anche ospite sui emittenti privati, i notturni diremo, quando che c'era ospite veniva giù. Io mi ricordo che una sera gli ha detto, ciao fammi vivo con mio papà, perché dopo io vivevo con suo papà, non vivemmo neanche a fa come pare figlio, ma come Mario e Muser, perché barufemo. Se diciamo robe, però dopo sì, dopo sì, sa quando Maria Mosè che si becca, sì. Non so più Sofia, io non so più mia madre, mio padre, siamo Maria e Mosè. Com'era dolce che del parlare? No, era dolce, sì. Era Silvia, aveva anche un bel viso, cioè bello carnoso, ma era insomma robusto, ma un bel uomo, insomma, elegante, sempre tenio a modo, anche se viveva da solo, se insomma. E come cosa insegnava lui, mi pare? Lui insegnava, era professore di lettere. Addirittura? Sì, tutti. Tanto è vero, guarda, che proprio Jerry, che si viene a trovarmi mio figlio, volevo mandarselo dove ho conosciuto. Perché ho visto diverse volte anche qua, e ho detto sì, mamma, ho avuto un giorno solo fare le scuole a Coeo. Perché? Perché aveva cambiato istituto, aveva sbagliato istituto. E che sono misero per elettrotecnica, se venivo a fare la mattina, cioè c'è stato tutto il giorno, ma dopo fare, capito che era sbagliato, doveva andare su un'altra scuola. Oh, signore, pensa un po' tante volte. Sempliciotto chi... anche, perché c'è, non sai che se abbia affanato di Madonna che ho sbagliato, che c'è stato? Un tipo molto particolare. No, guarda, torniamo fianti in Dio. Quando che c'è stato un concorso di poesie, no? Che mico una poesia mia era andata insomma col punteggio un fiantin altina, però a un certo punto il punteggio si era fermato e si andava avanti qualche d'un altro, no? più di me. E dopo mi è stato detto in confidenza da un amico, da una mia, insomma, che io la poesia non era interessata. Ah. No. Niente, ora si era fermato il voto. Quando che mi ho visto qua, dove che stavo di casa adesso, dentro una cartoleria, diverso, faccio amore, perché il giorno poi mi mette una mano sulla spalla, no? Ciao, sì, buon sì, c'era un compagnone. Sì, ma solo che mi si arrabbiata con te. Ciao, Vecchia, poco sai che ti ho fatto? Era che ho detto, ti ricordi? E mi mette, mi cava via e manda la spalla a destra, mi mette sulla sinistra, fa, ti viene bene un cappuccino? Ma vai, ma ora ho tutto. Molto probabilmente a lui non interessava quel tipo di poesia. No. Sì che le tue poesie sono belle. Sì, ti sai qual che era? Quale? Homo. Ah, non gli è piaciuta? No. Oh, probabilmente... Strano perché... Beh, allora ci fermiamo un attimo, sì. Dopo ci riprendiamo. Sì, sì, per la terza canzone, Antonio, che era sì, i Bee Gees. La canzone è, andiamo sull'internazionale questa volta, con i Bee Gees. How deep is your love? Cioè, quanto profondo è il tuo amore? Bene, ascolta. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to share. When they all should let us be, we belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. In a world of Eccoci di nuovo in studio con la nostra Franca. Franca? Sì. Eccoci qua. Dico da dire ancora a dottore Rubetti. Sì. Dunque Mario, io praticamente ho scritto anche un'altra poesia intitolata La Chieta Disperazione, ti vedi? Versi della poesia che rancura tutta sua malinconia. E ora dice, prenderò il treno e me ne andrò. Sarò solo come sempre. Qualche sorriso indiscreto, un cenno di saluto. Non mi aspetterà nessuno all'arrivo del treno, tranne l'abbraccio della morte. Insomma, è la poesia molto... Frasi potenti. Qua andiamo avanti, dice Mario, negli ultimi momenti della sua vita, dopo sta poesia qua che dice non troverò l'abbraccio della morte, forse è stato il momento che anche a Hughes veniva quella malattia della depressione. Male oscuro. Sì. Esatto. Mario, negli ultimi momenti della sua vita, ormai diventata grama da incubo, è garsa di messaggi significativi. Hughes ha scritto per le strade e per i muri di Venezia messaggi che di certo presagiva che nella sua mente qualcosa non andava e che nessuno, essendo qui scritti, immaginava che nella gran tragedia di invocazione Mario avesse bisogno di aiuto. Di aiuto esterno. E infatti, che se, non so se era canzeata, Hughes ha scritto solitudine non è essere soli, è amare gli altri. No, è amare gli altri inutilmente. Mario Stefani, firmata. Comunque guarda che è una realtà, eh? Sì. Perché uno può sentirsi... Sì. Su un altro ha scritto, non mi pento di aver speso la vita. Ho scritto sui muri per strade di Venezia. Ah, sui muri di Venezia scrive queste robe qua. Sì, graffiti proprio. Non mi pento di aver speso la vita in futili amori. Non ho desiderio di potenza né conosco la fiamma dell'odio. Amo la beltà dei ragazzi, la loro voce, il loro riso felice e qua è tutto, carne, testa e desiderio. Ecco, più che dire, è la loro voce, il loro riso felice. Legarsi ai scritti per papà e strade, sta roba. Quindi sulle strade, sui muri, voi leggevate queste cose qua? Sì. Quindi lui proprio non aveva nessuna remora, forse se avrà trovato su un bivio che non sapeva più fidarsi né di questi né di quei né di st'altri. Ti ha capito? Quando ti sei su un bivio che magari ti dà una roba che ti credi bella, dopo hai spai che sei a vipera che ponze. Ti credi da bella brutta, magari quello lo fa per altri scopi. Non capisco perché dica che ha trovato tanta cattiveria in sostanza. Questo non so, perché se tu dici che era tanto amato da tutti. Sì, era amato, diremo, dai persone comuni. Ma Hughes trova nella sua natura i tradimenti, invidie, chissà cosa che c'è da sotto. Cioè, l'intimo non potevamo saperlo più. Sì, l'avventura personale, molto imperscrutabile. Molto probabilmente, essendo una persona molto sensibile, magari sentendosi rifiutato, ha scatenato in lui un qualcosa che poi non è più che stato capace di controllare, ed è per questo che logicamente è arrivato a... Sì, è il momento che ha deciso, ti vedi, che questa invocazione di aiuto non le stai percepire, Mario non gli ha fatta, e ha dato l'addio alla sua vita, alla sua storia, alla sua disperazione, dopo una gran sconfitta, nei momenti di tristezza, dopo aver vinto tanta cattiveria e invidia, e sta mancanza di amore che lo ha portato al suicidio, perché Mario si va a suicidare. Ecco, questa cattiveria e invidia, non riesco a... perché in fondo era una persona, un insegnante, non è che fosse una... Bisogna vedere i suoi compagni, fra i suoi compagni. Ah. Ti ha capito, quando che ti sei fra amiche, che ti conosce un tosetto, ti va via con quello, magari quello che ha già st'altra amica per parte di A, ti credi che non sia vero, ma se è vero... Qui ti mette su erezza, chissà che calau che ha, è andata... La calunnia... Calunnia, sì. Probabilmente lui si è trovato con persone che non l'hanno capito. E diceva che appunto, allora Mario vissuto la sua vita da omosessuale, e basta. Un suo amico dell'epoca... diceva che diverse volte Mario gli diceva di aver spesso reazioni occasionali a pagamento con ragazzi di vita. Pensa un po'. Ti ha capito? Pensa gli stessi che Hugo dedicava poesie erotiche. Mm-hmm. Tipo Pasolini, insomma. Ma aveva un certo legame personale in modo morboso da definire a sua morte, che origa giudicata pasoliniana al momento, infatti, invece dopo non è questa la verità. No. Concludo con le ultime righe, poi finiamo. E arriva il monumento del tragico della sua morte, se sta una studentessa a dare l'allarme ai 9 di sera, di quel 4 maggio, no? C'era una domenica e nel dopo pranzo ella aveva da trovarsi con Mario per parlare di una tesi che io doveva aiutarla per fare un esame, insomma. E aghe telefona, ma al telefono si muto. Al pronto de Mario non risponde, tanto che a un certo punto si preoccupa per essere aiute. Vedi che sapeva che aveva problemi, sì, no? Sì. E acciami i pompieri. No. Stefani si sta trovando morto, strangolato con una corda al collo. E io pendolava da una scaletta. Mamma mia, sei piccato in sostanza. Sei piccato. Un classico Dio. Ma io te dico finisco, attaccata alla corda, io aveva messo una busta con scritto a ragione del suo gesto tragico. I principali dubbi sulla sua morte si stai sollevati mesi dopo, perché c'è anche ora che passa tutti gli accertamenti, con la convinzione che il poeta si aveva riscattato forse da un tradimento di un amore non corrisposto. Quello che parlavamo prima. Sì. E nella sua casa si sta trovando tanto di calbentetio, tanta roba di valore, e col tempo si viene a sapere che si stanca un erede universale di Mario. Io aveva quadri, libri, roba antica, che aveva una casa insomma ben fornita di tutta roba di valore. In più aveva un autoritratto che aveva fatto di Chirico. Addirittura. Sì, è un quadro che io aveva impitturato, adesso non mi ricordo il nome del pittore, insomma, che aveva robe sue. Allora, torniamo a questa eredità. Nella sua casa, appunto, si sta a trovare, e l'erede, dopo un poco di tempo, si viene a sapere che l'erede universale di Mario, e qua che è il nome, si chiama Nicola Bernardi, ed è mestiere fa il fruttarol. Ah, io se aveva fatto una gran amicizia con questo fruttarol e lo ha anche aiutato finanziariamente quando aveva problemi o per bottega o non so cosa, insomma che aveva un attaccamento senza altre robe perché sto qua era sposata, se l'ha affezionato perché forse lo ha capito, una vera amicizia magari. Sì, lo avrà. E ora dal 2001 che Mario è morto, sto signore sta informato che il testamento autentico è a nome suo. Perciò Yuga eredità, prima che aspetta che passa tutte le ciacque, ciacquete, ciacquone e poemiche, e dopo 2 anni si è stato fatto il catalogo di tutti i suoi numerosi libri, si è fatto il catalogo di roba che c'è, libri, etare, quadri, ritratti del poeta, e che ha donato tutto sto fruttarol alla Fondazione Querini Stampalia. Però. È il solito, tutto era abbastanza. Sì. Con l'impegno però di metterli a disposizione a tutti gli studiosi interessati con un appuntamento annuale per ricordare Mario e la sua arte. L'erede ha anche eredità sia appartamenti a Mestre. Porca miseria. In più è su casa Venezia, ma per il momento, sempre il momento, quel momento è sì, restato certo. Fermo. E un grazie che va a Mario, così l'ha detto sto erede, poi darò la possibilità ai miei figli di studiare e di crescere bene. Perché c'è stata una volta che io, Mario, ho contato che se aveva anche affezionato e putea di sto fruttarol, che lo ha tanto aiutato. Sì. Tanto è vero che gli ha battezzato anche. Anche padrino, insomma, okay. Sì. E così, ecco. In sostanza è una grande personalità di Venezia, sì, questo Mario sì. Stefani. Penso che sia uno dei migliori. Sì, perché no, è uno dei migliori, però oltre che all'estero, che quando ti sei all'estero non ti sa mai cosa chi fa all'estero se uno te lo dice. Come ti fa sapere se uno. Certo. Che dopo certe robe va anche in dimenticatoio. Tanto è vero, guarda, chi voleva mettergli una targa a ricordo nella sua casa. Ed è successo che un inquilino non aveva questo, perciò niente da fare a sta targa, se 70 anni più che aspetta una 70 adesso una cretinata. Ne aveva messa, niente, sulla porta della casa, no. L'inquilino non aveva questa, non si sa. E io dico, ha deciso di metterla sul muro di un campo è a grande, sul muro, e invece sul muro che sta proibito, vicino a Cesa, perché è una bella Cesa grande, perché quella zona là è in vendita. Oddio mio, c'era, te parlo sempre di allora, perché adesso non so, e perciò aspetta ancora la targa di Mario, da mettere che una targa. Quindi la targa di Mario ancora non c'è? Non c'è, ormai sarà andata... Capito. Cioè, io praticamente dopo io adesso te dico, dimmi così finito, che piaceva anche a divertirsi, io a ridere, sai. Ora sì. Io dice che quando che c'era il concorso di poesie erotiche, proprio potenti, cioè io c'era in mezzo un caeo, e ora lui diceva una volta che finiva la premiazione, c'era all'aperto, sul sì. campo a Venezia, dove che abita Giorgio Baffo. L'altro poeta, cioè già da colleghi. E ora dopo diceva che insomma mi faceva di brindisi particolari, con bicchieri particolari, cioè robe sue. E ora io una sera, che era in compagnia, magari c'è chi di scherza, scrive: sia è a mia bara fatta a tazza di vino, sul cuore posato un libro di erotiche poesie, sulla lapide segnata in una breve frase scurile, che faccia ridere i ragazzi e ricordi d'amore, e al fine l'augurio che mi fo possa il mio corpo concimare una vigna e tutta la mia trasformazione sia gaia e si trasformi in vino. Spiritosa. Sì, veramente, veramente spiritosa. Sì, spiritosa. Sì. E volevo che magari accennassi un momentino come si svolge, come va adesso. Siete in pieno carnevale? Cioè, mi penso che abbia ancora da cominciare grandi robe. E grandi feste, si passi queste robe, che ancora a cominciare, bisogna che venga i giorni particolari. Cioè, il carnevale vero e proprio di Venezia cos'è? L'ultima settimana? Le ultime due settimane? Cioè, dipende quando che sei vicino a Pasqua o a Quaresima. Cioè, mi non so Pasqua quando che avviene. Al 20 aprile. Cioè, è bassa. No, è alta. È alta. E ora dura di più. Quindi l'ultimo giorno di carnevale deve essere... Il martedì grasso. Sì. Gioba, Mati, però che sarà i 10 giorni ora delle feste, delle cerimonie, e mascherate, baldoria in piazza, sporcarie dappertutto, per terra. Eventi culturali, eccetera. Eventi culturali, beh, ne sarà senz'altro qui, dappertutto, e anche a diversi, proprio che c'è il baio della Cavalchina, il pranzo del baio del Doge, che c'è tante robe, tutta roba per chi che caschei, Antonio. Allora, una ristretta minoranza, diciamo. Le mascherette qui che va in giro così, che sarà anche dei cerimonie, che sarà giochi in piazza, sui campi, campiei, che sei a compagnia della calza, per esempio, che fai il suo spettacolo. Certo, certo. E faceva parte anche io della compagnia della calza. Ah, sì? Anche? Sì. Come, famosa. Sì, ciò per ma più... Ma la compagnia della calza cos'è, una compagnia teatrale? No, sì, fa anche teatro adesso, faceva dei finte momari, in antico, dei finte battaglie navali. Compagnia della calza era una squadra, è antichissima, no? Sì. Adesso è d'estate ancora. Sì. Ed era una compagnia dei giovani nobili che vestiva in un modo particolare, gli facevamo appunto la calza, perché aveva una calza magia, una ancora diverso d'altro. E su al polpaccio della gamba gli aveva ricamare l'insegna degli arditi, che aveva un bel cappello strano, insomma era ognuno vestito, diciamo, la calza appunto per questa particolarità, che c'era vestiti strambi, e io organizzavo proprio per le feste, sia del Natale che del Capodanno, per i nobi. Ho capito. E faceva teatro, insomma, ed era così bello, faceva tante robe, da neanche non crede, faceva serenate in barcaroe in gondola, cantava, gli faceva appunto teatro dentro i palazzi e anche in strada. Adesso è cambiato un po'. Devi farà sull'interno adesso, però è ancora stata. Noi ci accontentavamo del teatro dei burattini, sì, per carnevale. Sì, aveva. Non so se ti ricordi. No, mini come avevo il teatrino, andavo a vederli. Sì, andavamo a vedere il teatrino dei burattini. Insomma, mi ricordo la prima volta che mi avevo vestito da maschera, da carnevale in maschera, già ero in campagna. Avevo messo la tenda qui, che c'era sotto il lavandino, la voce da estaban diminuti un tocco di strazza per coversi i sensi che era sotto. Io invece la prima maschera mi sono vestita da diavolo. No, ma mi ero vestito da orientale, non perché non mi conosceva, mi sono lasciato in testa a modo di turbante, mi ho fatto due baffi e un bubi su qua in alto per fargli aggrespare la sciarpa, ecco, dove vestì in maschera. No, non mi ero mai vestito in maschera. No, io sì, da diavolo, rossa ero. No. Beh, no, Franca, noi... Senti. Ti ringraziamo, sì, fatto, è stata una bella questo c'è bella quanto che Migo potesse spiegare. Beh, è stata una bella disquisizione, una bella, abbiamo parlato di questo Mario Stefani che era molto importante per Venezia e anche amava tanto la sua città, no? Sì, quello si parla già da tremendo perché va bene, casomai parliamo un'altra volta, ha anche scritto poesie su Venezia. Che la considerava proprio una donna, un amore giovanile. Ah sì, addirittura Venezia la considerava così. Sì, personificata. Sì, aveva dei bei, per quello, no, tanta roba lunga come me, rovettine, ma insomma... Va bene, Franca, ti ringraziamo tanto. E mi ringrazio. E preparati per la prossima. Sì. Ok? Giavarò tempo. Ciao Antonio, va ciao bene, Eddie. Ciao, e buona serata a tutti. Sì? Alla prossima, Ciao, Franca. Ringraziamo la Franca e ci ascoltiamo una canzone. Allora, una favola blu cantata da Claudio Baglioni. Una tavola blu, il mare con tante barche laggiù. Forse l'estate è già qui, c'è il sole ma non per tutti è così. Stesse facce vedrò, ragazzi che si ritrovano qui. Un grande prato sarà la spiaggia quando la sera verrà. Una favola blu, il tuo amore per me. Penso e ripenso che ormai ho perduto te. Quante ragazze laggiù, ti penso ora, mi manchi di più. Era grande così, l'amore forse più grande di te. Eri sincera, lo so, ma il tempo forse ha tradito il tuo. E ritorniamo in studio per il finale con un argomento prettamente veneziano che più non si può, il Bucintoro. E di questi tempi è notizia che i francesi, per rimediare alla distruzione della Bucintoro da parte di Napoleone, stiano per finanziare la ricostruzione o comunque dare una mano. Il Bucintoro, spesso nei nostri modi di dire, ricorrono parole che necessitano di una puntuale spiegazione. Questa è del professor Gianfranco Siega, sì. Naturalmente. Della parola ombra si è già detto, confutandone la falsamente creduta origine e proponendone una certamente più plausibile spiegazione. Ma parecchie alte voci, altri vocaboli tipicamente veneziani, restano ancora da chiarire. Ne offro uno al lettore. Il Bucintoro era la nave dorata sulla quale il doge, simbolo del dominio sul golfo di Venezia, sposava il mare, probabilmente la prosecuzione di un antico rito apotropaico, durante la festa della Sensa, Ascensione. La leggenda vuole che la cerimonia abbia avuto inizio nel 1177 con il doge Alessandro Ziani, a ricordo di una vittoria, peraltro mai ottenuta, sulla flotta del Barbarossa. Il Papa Alessandro III donò in quell'occasione al doge un anello simboleggiante, secondo l'usanza del tempo, il matrimonio, e cioè la signoria e il dominio di Venezia sul mare, il quale contraeva così con il dogado lo stesso rapporto di obbedienza che legava la sposa al marito. Altri studiosi collocano invece la cerimonia addirittura nell'anno 999, data della vittoriosa spedizione del doge Pietro Orseolo II contro i pirati narentini. La prima attestazione si ritrova comunque in un decreto del Senato del 1311. In verità del Bucintoro sappiamo ben poco. L'ultimo fu varato nell'anno 1722. 35 metri di lunghezza per 7,5 di larghezza, mosso da 168 vogatori, 4 per ogni remo. Fu saccheggiato dai francesi nel 1798 e poi fu adibito a carcere fino alla definitiva demolizione. Oggi ne resta solo un fedele modellino, costruito nel 1824 al Museo Navale. Intorno alla genesi e al significato di questo nome si sono spese molte pagine. Si spazia dalla Navis Ducentorum Hominum del Boerio, per il quale Bucintoro è corruzione di Ducentorum, fino alle discutibilissime Bus Centaurus e Hippos Centaurus, bue centauro o cavallo centauro, che ne attesterebbero una supposta grandiosità, ma che ci sembra abbiano poco o nulla a che vedere con questa nave, tra l'altro di media stazza. Cerchiamo allora un'altra strada. Sappiamo per certo che nel XII secolo i vocaboli buson, bonzonus, stavano per navis, e in questo ci confortano i vocaboli dell'italico arcaico burcio, buccio, buzzo. Ne hanno il medesimo significato naviglio di media stazza. Queste varianti locali sono tutte di probabile derivazione greca. Ciò posto, domandiamoci che cosa soprattutto avrebbe colpito l'immaginazione popolare, e cioè come avrebbero i nostri antichi chiamato una nave risplendente, addirittura ricoperta d'oro? La chiamarono con molta semplicità buson d'oro, bucion d'oro, bucintoro, nave d'oro. Ulteriori specificazioni. Una tradizione lo vuole antichissimo. Il Vianoli lo fa risalire addirittura ai tempi del dogado tradonico, 836-864. Certo è che se ne parla in una legge del maggio 1293 e in un decreto del 1311 per un nuovo rifacimento. Per quanto concerne l'etimo si è detto sufficienza. Aggiungeremo solo che il soprascritto Vianoli sostiene che sia così nominato dalle trombe, in latino buccine, che squillavano al suo salpare con il doge a bordo. L'interpretazione sembra però alquanto forzosa. E così, diciamo, abbiamo dato questa sì, così, indicazione su questo prezioso reperto, certo, veneziano, certo, che sta, sembra, per ritornare all'antico splendore. Benissimo. Allora, grazie Antonio. Grazie a voi. Ecco, e salutiamo i nostri ascoltatori dando appuntamento alla per prossima, la prossima volta. A Dio piacendo. Ecco, a Dio piacendo. Ringraziamo anche il nostro regista, che come sempre vi saluto affettuosamente col solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.